Buonasera a tutti da Web Radio Sera. Voce. Questa non aprite con la versione. Buonasera a tutti. Siamo tristi. Perché? Perché non ci hanno più. Cos'è l'amore? Questo non aprite con la versione 1.5. Oggi è il giorno di Halloween. Abbiamo tutti paura, voglio io un zucchi di è un bello spiritello! Quanti mammaruti! Mamma mia, ma maschere! Mammaruti! Io prego una persona a cui solo di stare zitta per chi porta sfiga. Io lo annuncio, maneggio porta sfiga. Maneggio porta sfiga, lo sappiamo tutti quanti. Maneggio quando non andiamo a Reggio. Reggio è rotto. Un 5 più 1. A Cosetro! Cosa non abbiamo sentito? Non parlare maneggio. Non parlare. Setrof. Ecco. Allora, io sono do sul tempo. Perché è la stessa cosa. A Lima così, ah, io non ero. Io si guarda io... i cosi, guarda. Anche Cicci. Anche Cicci. Io so che ci assomigli. Ma andiamo avanti comunque. Ma non mi piace di mezzo. Ecco. La finestra! Dai! E se laurea giusto in peggio scurrile! Giusto in comunicazione! È in comunicazione se laureati! Donne! Donne! È arrivato l'orrotino! Ho mulovo un cortiedi, mannori, gocci! Moneggio! È arrivato un oppleolaio! È arrivato un cippo! Ecco bello! Ecco qua! Ok, abbiamo esaurito la serie degli omini simpatici delle televendite. Materassi! Materassi! Materassi a bue! E poi? Ma ricordo. Ripariamo le vostre cucine! Cucine a gas! Cucine a pezzi disponibili! Dove uno con una macchina tutti i pezzi di cucine dentro? Non pizzo con la pezzo, è universale! È la macchina di gadget! Ma io non faccio senza se mai unico, è brutto che manchi il cane, davvero! In realtà l'abbiamo fra noi questo qua, il massimo maneggio. Bravo, sono cugino. Grande! Ci stiamo esaurendo in lodi sperficate verso il dottor Maneggio, che sinceramente ci sta mandando ampiamente a quel paese. Direi di proseguire con il programma. Salutiamo il regista Nicolo. No, il regista. Regista, registrate. Buonasera a tutti. A ti di tutti. A ti occhio di tutti. Intanto chiude il balcone che fa cosente. Ma pensiamo se la abbassa un po', grazie. Bravo. Grande, è okay. Nuovo, problemi giustamente. Tecnici. Problemi tecnici. Okay, allora. Special guest. Aspetta, prima si fa piano piano, le cose si fanno. Avete capito che ho con me i soliti 4-5, sì. Sgangherati. Allora io saluto il più serio che c'è in questa stanza dopo Nicola. Nico, ti vogliono. Nico, ti vogliono. Mandaci un messaggio. Dov'è? È fuiuto, ma. Se è grazie. Qui abbiamo il nostro amico di Bagnini. Buonasera, amico, avvicinati al microfono. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ospite d'onore. Il nostro ospite d'onore. È elegante d'onore. Quando parte. È elegante rispetto ad altri. Guarda, si dà giugiti caca, sparano due. Laura, tu rischi, Laura. Tu rischi. Mi sta rispetto. Guarda te. È Halloween. È Halloween. La notte delle streghe, scusa. È Halloween. Va bene. La notte dei fantasmi. Halloween è nota per le zucche, qui siamo tutte zucche vuote, lo possiamo confermare. Questo è sicuro. C'è una cannella di vintage. Un po' sembra ci tutto. Allora, io stavo facendo un discorso serio. Mitch l'altra volta ci ha presentato Ebba! E io devo girare da una parte! Guarda, ti manda a dire cosa, il nostro carissimo amico Misseri. Se non stai a corto ti ammazzo per la Madonna. Caritto! Caritto! Chi? Come? Chi era? Antonio Cassano. Uai, guaglio! Ciao, che c'è fatto qua? Mi stava mangiando le orecchiette! Aspetta, te la faccio di dopo, sa no, ma sempre interrotto. Mi stavo mangiando le orecchiette, mi è venuto in mente una cosa. Non so se voi siete d'accordo. Può essere. Sì. Ah, dico. Diciamo. Non pensavo che Amanda Nox è una gran puttana. E basta. È una grande smazzoccola. Commenti nazionali solo mandano. Sì, io stavo dicendo Mitch. Mitch, se per favore, lo so che questi soggetti ti fanno scomparire. Che ne pensi tu di Amanda Nux? Garbate. Mitch, che ne pensi tu di Amanda Nux? Amanda Nux è una grandissima seria. Grandissima serie che fa bene al mondo. Grandissima serie che fa bene. Ma sputato! Ma sputato! Io mi vedo sempre. L'hai fatta apposta. Sì. Signore e signori, benvenuti al primo campionato luzzese di sputacchio. Sputacchio. Dai, Mitch, dai. Stai leggendo, l'altra volta ci hai presentato il tuo nuovo CD Andare Su. Dopo che ci fai un brevissimo pezzo di Andare Su solo il ritornello, ci vuoi cantare un altro inedito di questo CD? Grazie. Cercherò. Grazie, vai, cercherò. Vai. Prima andare, aspetta un attimo. Se chiudiamo la musica, che un attimo cantami. Certo. No, chiudilo, grazie. Che onore, oh. Che onore. È ricercato, vabbè, lo faremo cantare dopo. Allora, prima di chiudere questa introduzione, io vorrei chiedere. Sì, io vorrei chiedere. Lo stanno chiamando per fare un concerto. Non è una cosa studiata. Viaggiando a Rotolo. Volevo chiedere a voi se pensate come me che. Buongiorno Bellani. Che Amanda Nux è una grandissima ragazza che fa del bene all'umanità. E se pensate che abbia. Grandissima zoccola! Zoccola! Con la Z maiuscola o minuscola? Maiuscola. Ecco, bravo. E che abbia il giorno ci ha rotto veramente i palle. Mo te lo faccio fare. Minuscolo la via solo. Prego, prego. Allora. Hai perso la tua occasione. Vado nel secondo posto. Grazie. Infatti, perché Biagio ci ha visto che hanno rotto i cugliuna, così sai, tu passi in secondo piano, no? Però c'è un altro discorso. Qual è il discorso? Quello di Amanda Nox. Che? Che è una grandissima. Grandissima, no, di più di grandissima. Cioè è una piccola P maiuscola, è una Z con la Z maiuscola. Guarda, io che so io, è molto brava, molto seria. Con gli uomini è molto brava. È molto onesta. Quando non si fa bili, così c'è! Che è una zoccola, lo sapevo! Sotto la lenzuola, però. So, per chi sopra com'è? Prego! Vabbè, Biagio Andonacci davvero ci ha proprio scassato. Scusateci, ascoltatore. No, scusateci, lei ne ha proprio i coglioni. Non è colpa nostra. Non è colpa nostra. Non è colpa nostra. Di chi era? Ed è bellissimo quando nel mezzo di un grandissimo pezzo di Elite FIBA ti sente a Idu Casignesco che l'ha sparata. In istruzione, ma va fango. Va bene, io dopodiché prego, Mitch, stavo dicendo cantaci il tuo inedito e un pezzetto, il ritornello di Andare Su, prego. Vabbè. Con te partirò su navi per mari che io lo so. No, non esistono più e adesso si libero. Con te partirò. Mitch, è arrivato il biglietto. Devi partire subito. E andare su, no, dico, andavo ritornello di andare su. Parto per New York, ciao. Andare su. E andare su nel cielo, giù. L'avevo giocato pure a Mitch. Ora vorrei vorrei maneggio qua in studio con noi. Vorrei sapere lui cosa ne pensa di Amanda Nox e di Biagio Andonacci. Infatti, grazie. Prego, prego. Italiano. Prima in italiano e poi per il bisignanese così. Zitti. Allora, uno è un cretino e un'altra è una zocca. Uno è nuciuota e un'altra è una zoccova. Guarda, per camminare, uno ci deve mettere gli zoccoli, no? Come cammina, scusa un po'. I sottotitoli sono offerti da Caseificio Roberti. Infatti, grazie a Cristina. Sulla bocca, nelle bolle blu. Barichina. Sulla bocca. No, potremmo dire. Amanda Nox, bisogna pulirsi qualcos'altro. Va bene, chiediamo questa introduzione di, scusa, di un quarto. 10 minuti vabbè, e ci ritroviamo fra poco, grazie.